richiesta da alcuni, contestata da altri, insomma molto discussa negli ultimi mesi. È arrivata infine con la manovra del governo Monti la decisione di tassare i cosiddetti capitali scudati, ovvero quei beni esportati o detenuti clandestinamente all'estero e fatti poi rientrare in Italia e quindi fatti emergere e regolarizzati con il pagamento di un'imposta e senza nessuna ulteriore conseguenza. Ora è in arrivo un prelievo una tantum dell'1,5% su questi capitali. Saranno soggetti i beni regolarizzati in tutte e tre le operazioni di scudo attuate tra il 2001 e il 2010, sempre dai governi Berlusconi. Si tratta in totale di 182 miliardi e il gettito complessivo recuperato dalla manovra arriverebbe quindi, stando alla relazione tecnica al decreto, a 2,19 miliardi. Non c'è molto tempo per iniziare a versare quanto stabilito dall'imposta, definita straordinaria, per il cui pagamento sono state previste due rate, pari esattamente alle due metà dell'importo dovuto. La prima andrà versata entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro lo stesso giorno del 2013. E attenzione, poiché il decreto parla di attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, il riferimento non si può intendere come limitato alle sole attività finanziarie. L'imposta colpirà qualsiasi forma di capitale emerso finora, compresi ad esempio gli immobili, i gioielli, i quadri. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Allora, intanto devo dire che ci sono molti ascoltatori che ci chiedono anche un commento. C'è poco da commentare qua sul repentino aumento dei carburanti a partire già da oggi. Marco, magari possiamo ricordare che oggi voi sul Sole ve ne occupate, per la verità il titolo d'apertura del quotidiano di questa mattina. Avete un po' preso tutte le misure che immediatamente sono entrate in vigore per capire che ricadute stanno già avendo fra i cittadini. Questa della benzina è la più evidente, insomma, ce ne siamo accorti un po' tutti stamattina. Io ho fatto il pieno ieri mattina, non so che cosa mi è balenato. Sei stata molto fortunata. No, ma se avessi fatto un'operazione del genere in borsa sarei stata, non lo so, magari addirittura accusata di insider trading. Avevi avuto qualche informazione in tempi sospetti, Marco. Bastava leggere, insomma, il provvedimento e c'era questa applicazione immediata, un decreto legge in gazzetta, ed evidentemente l'aumento delle accise ha comportato subito. Sappiamo che le compagnie petrolifere e i distributori sono molto sensibili a questo tipo di incrementi, insomma, e il risultato è quello che vediamo scritto lì nei numeri delle pompe di benzina. Ecco, però insomma va ricordato che effettivamente c'è un aumento delle accise sui carburanti, non sono introiti che finiscono nelle tasche dei distributori dei benzinai, Marco, questo per correttezza, anche se ci fa arrabbiare. È qualcosa che pesa anche a loro, evidentemente, perché se poi cambiamo le nostre abitudini di consumo del carburante utilizzando di più i mezzi pubblici, magari anche per loro le conseguenze ci saranno. Volevo solo rispondere ad un altro ascoltatore che chiede: non dovevate parlare di etichettatura? Io so che molti di voi controllano che noi pubblichiamo una così programmazione di massima delle puntate di Salvadanaio sulle pagine di Plus 24 ogni sabato. Dovete capire però che con tutti i provvedimenti di questa manovra non possiamo correre dietro, non possiamo non correre dietro anche a tutte le novità che stanno arrivando sui temi dell'etichettatura dei prodotti. Potremo sicuramente andarci anche nelle prossime settimane, è un tema che non scade. Invece sui temi di attualità dobbiamo intervenire immediatamente. Avvocato Vedana, allora, quante volte abbiamo parlato con lei di scudo fiscale? L'ultimo sicuramente lo abbiamo analizzato in lungo e in largo, ma ricordiamo magari ai nostri ascoltatori che dal 2001 ci sono state tre grandi operazioni, forse l'ultima è stata, la definisce Ettore Livini su Repubblica questa mattina, l'operazione Monster, la più grande per entità. È così, Deborah, ce ne sono state addirittura quattro di scudi fiscali, perché c'è stata una prima finestra temporale tra il 2001 e 2002 che è stata molto breve, peraltro è stata quella più conveniente per chi ha aderito, perché la tassazione in quel caso era al 2,5%. Quella importante è stata quella del 2003, grazie alla quale lo Stato ha incassato più di 60 miliardi ha fatto emergere 60 miliardi, ha incassato qualche miliardo di imposta. Quella Monster effettivamente è quella le ultime due edizioni dello scudo, il Ter e il Quater, tra il settembre 2009 e l'aprile 2010, grazie alle quali lo Stato ha incassato circa 5 miliardi, poco più di 5 miliardi di euro. I dati sono stati anche ben evidenziati dal Sole sia ieri che oggi con un con un articolo molto utile di Marco Piazza che credo il lettore non si sia fatto sfuggire. Marco Piazza è uno dei fiscalisti appunto che il Sole 24 Ore utilizza di più per interpretare appunto tutte le manovre che arrivano nei dettagli fiscali in particolar modo. Allora andiamo prima di come dire andare alle technicality con cui questa aliquota verrà applicata, come verrà calcolata eccetera, sicuramente ci sono molti aspetti da chiarire ancora, Marco, magari i nodi irrisolti che dovranno essere chiariti, ci sono molti ancora, ce ne sono diversi diciamo da parte del governo. La norma non c'è dubbio che sia stata scritta in fretta e presenta tutta una serie di incongruenze che andranno corrette al netto di possibili fiducie in Parlamento. Tra l'altro un aspetto importante potrebbe essere ritoccato è anche quello dell'aliquota applicata, certo. Perché si comincia a parlare in maniera intensa di un possibile incremento, perché ricordiamo un incremento di appena l'1% potrebbe portare in cassa quasi 2 miliardi, insomma compensare gran parte poi di quella parte della manovra legata al mancato adeguamento delle pensioni, ma questi poi sono dettagli tecnici che vedremo nello svolgimento dell'attività parlamentare. C'è, Deborah, un principio chiaro che questa norma sancisce, può piacere o meno, è che tutto quello che è emerso in questi 10 anni, a prescindere da dove adesso sia, dovrà essere, come dire, ritassato e gli intermediari dovranno, diciamo, o appunto prelevare queste somme, in qualche modo chiederle ai contribuenti, o nel caso in cui non ci riescano, denunciarli, e quindi i contribuenti perderanno l'anonimato. Cioè, quindi una banca sostanzialmente che si è occupata di scudare un determinato bene magari nel 2002 dovrà dire, se questo bene in quella banca non c'è più, ovviamente finanziario chiaramente, e dovrà dire questo contribuente ha fatto questa operazione e quindi adesso io non sono più l'incaricato di fare il prelievo dell'aliquota dell'1,5%, va a sapere dove è finito quel bene. Però insomma speriamo che almeno queste, non dico per i contanti e le operazioni da 1.000 euro c'è un po' più difficoltà, ma almeno per queste operazioni che sia un po' più facile la tracciabilità una volta rientrati in Italia, prima era un po' più complicato. C'è un aspetto che Andrea da Biella sottopone, pertanto io lo vorrei sentire subito questo ascoltatore, perché se la sono fatta in molti questa domanda. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Io volevo chiedere all'avvocato se ritiene questa nuova imposizione straordinaria legale, costituzionale, in quanto normalmente le tasse devono essere non retroattive, in questo caso è retroattiva, e non soltanto di un paio d'anni, ma a questo punto di 10 anni. Mm. E se ritiene che ci sia dello spazio per un eventuale ricorso, una class action contro lo Stato, perché ha violato un contratto che ha firmato con i vari soggetti che hanno scudato. Certo, infatti lo sottolineano anche molti altri fiscalisti su numerosi giornali questa mattina. L'imposta sui capitali che hanno usufruito dello scudo fiscale andrebbe a ledere il patto fra lo Stato e i cittadini anche in termini di riservatezza. Salva Danaio. E allora oggi parliamo appunto delle misure Monti, di tutte quelle che sono state prese, quelle che possono interessare i nostri ascoltatori, i cittadini, e soprattutto chi ha scudato capitali detenuti all'estero negli ultimi anni con tutte le operazioni che sono state appunto compiute dai precedenti governi. Adesso il governo Monti fissa un'aliquota dell'1,5% sui capitali rimpatriati e regolarizzati con queste operazioni. Naturalmente questi capitali scudati erano già stati oggetto di tassazioni differenziate a seconda delle operazioni. E in molti si chiedono, c'è anche Marta che ci scrive da Piobesi d'Alba, un paese che non conosco: non credete che il prelievo sia incostituzionale perché è retroattivo? Avvocato Vedana, credo che tra voi giuristi legali questo problema ve lo siate posto. Ce lo siamo posti, è evidente che poi la facoltà dello Stato di poter imporre delle tasse c'è, concordo sul fatto che la retroattività dell'imposta potrebbe rappresentare un elemento di possibile incostituzionalità. Tra gli addetti ai lavori ci si è detti forse avessero previsto una tassa sugli scudi, ma senza guardare al passato, ma per gli scudi che ancora sono aperti, quindi sostanzialmente solo per chi detiene delle attività tutt'oggi segretate, probabilmente senza guardare al passato, poteva essere più meno incostituzionale, diciamo così. Poi fa molto sorridere, avvocato, mi scusi se la interrompo, che effettivamente a sollevare la questione dell'incostituzionalità sia magari chi ha scudato e che quindi chi ha fatto un po' anche l'esercizio dell'evasore in passato. Sorridevamo un po' con Marco Bellinazzo del fatto che adesso la class action degli evasori ci fa veramente anche un po' sorridere, però qualcuno addirittura si candiderebbe a portare avanti un'iniziativa di questo tipo. Non lo so, Marco, come la vedi? Beh, appunto, ci faceva sorridere perché appunto poi rivolgersi allo Stato per chiedere quello che si è tolto allo Stato in passato, per chiederlo adesso, mi sembra quantomeno insomma irrispettoso delle regole e di chi le tasse le ha pagate. Detto questo, è chiaro che c'è un principio di lealtà tra Stato e contribuente, per cui se vengono fatti dei patti dovrebbero essere rispettati. Lo statuto del contribuente vieta in qualche modo norme retroattive, ma ricordiamo è una legge primaria e quindi può essere derogata da altre leggi. Finché non sarà inserito, come spesso chiedono i commercialisti, in Costituzione lo statuto del contribuente, evidentemente potranno essere, quando c'è necessità d'urgenza, inserite norme anche di carattere retroattivo. Certo. Avvocato Vedana, allora questo 1,5% su che valore dell'attività finanziaria va applicato? Perché per un'attività finanziaria appunto scudata nel 2002, ritorniamo un po' indietro nel tempo così magari l'esempio è un po' più calzante, come si fa a ristabilire il valore su cui applicare questa aliquota dell'1,5%? Si deve risalire al valore del bene scudato all'epoca, lo si deve attualizzare ai giorni nostri o no? Di condividere la posizione espressa chiaramente da Marco Piazza oggi sulle colonne del Sole 24 Ore. L'unico valore certo, effettivo e diciamo oggettivo dovrebbe essere quello indicato a suo tempo nella dichiarazione riservata, cioè nel documento con il quale il contribuente aveva deciso di aderire alla sanatoria fiscale. Pensare di utilizzare il valore ad oggi dei beni oggetto di scudo potrebbe rappresentare forse un elemento che creerebbe maggiori problemi per gli intermediari, che dovrebbero preoccuparsi di raccogliere delle informazioni che non sempre hanno, soprattutto su determinate attività non finanziarie. Dall'altra, per lo stesso contribuente, che potrebbe non avere dei criteri certi su come determinare il valore ad oggi. Ripeto, non pensiamo solo e tanto al classico strumento finanziario quotato inserito nel portafoglio titoli scudato, ma anche ad altre attività diverse da quelle tipicamente finanziarie. Sì, nella versione attuale della norma, avvocato Vedana, è chiaro il ruolo che ha l'intermediario finanziario nella trattenuta appunto di questo 1,5%? È abbastanza chiaro, anche se non sono ancora stati chiariti aspetti importanti. Ad esempio, non è chiaro, anche se su questo probabilmente la scelta sarà di un certo tipo, se l'intermediario che dovrà applicare l'imposta straordinaria dell'1,5% sia esclusivamente l'intermediario che ha ricevuto la dichiarazione riservata. Può succedere, ed è successo con una certa frequenza, che il cliente abbia deciso di cambiare intermediario mantenendo la segretazione del conto scudato. Chi paga l'imposta? Il primo intermediario, quello che ha in mano la dichiarazione riservata nella quale c'è l'indicazione del valore scudato, o il secondo o il terzo intermediario, quello ad esempio presso il quale oggi il cliente mantiene il conto scudato? Io credo che la scelta, la definizione di questi aspetti, che comunque la norma rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, dipenda molto anche dalla definizione del valore, perché se il valore sul quale va applicata l'imposta dell'1,5 è il valore indicato nella dichiarazione riservata, credo che la cosa più opportuna sarà che sia il primo intermediario, quello che ha ricevuto la dichiarazione riservata, a doversi occupare di fare da sostituto d'imposta. Marco, ma l'avvocato Vedana parlava di conti scudati e naturalmente non sono banali conti correnti, sono, come dire, degli istituti un po' più complicati all'interno dei quali ci sono attività finanziarie di vario tipo che appunto in passato molti contribuenti italiani hanno sottratto all'esame del fisco italiano portandoli all'estero. Che cosa può esserci all'interno di questi, contenitori, chiamiamoli così? Vorrei appunto ricordare che non si tratta soltanto di strumenti finanziari, cioè era scudabile qualsiasi tipo di bene o valore detenuto anche il quadro del all'estero. Guercino, paradossalmente, insomma, se era custodito in una banca svizzera rientrato. Se un quadro di valore, evidentemente sì, così come gioielli, lingotti d'oro, e sappiamo quanto è cresciuto il valore dell'oro, quindi da questo punto di vista capire a quale valore applicare l'imposta potrebbe essere importante. Per cui evidentemente il ventaglio di beni scudabili è molto ampio, e quest'imposta si applica in qualche modo al valore patrimoniale che era emerso nelle varie operazioni di sanatoria. Un problema, per esempio, potrebbe esserci per quei beni che sono stati, come dire, regolarizzati ma non rimpatriati fisicamente, come hai ricordato tu all'inizio. Su questo la norma non è molto chiara e si dovrà appunto precisare anche questo tipo di aspetto. Certo. Allora andiamo a sentire un altro ascoltatore, Ettore da Roma. Ettore, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Senta, cerco di essere brevissimo. Io nel 2001 non ho esportato capitale all'estero, ma non so bene per quale motivo, sarebbe molto lungo spiegarlo. Ho importato i risparmi che avevo fatto con 20 anni di lavoro in Belgio, in Italia. Quindi io ho fatto proprio un'operazione di importo di euro. Non avevo esportato nulla, non avevo eluso nessuna tassa. Certo, però è probabile che io figuri come nell'operazione scudato. Che devo fare? C'è una possibilità di farlo presente? È una bellissima domanda, Ettore, la ringrazio. Avvocato Vedana, allora dice: lui non ero stato un evasore che aveva sottratto appunto qualunque tipo di capitale al fisco italiano. Lavoravo in quel periodo in Belgio, per cui tutto il mio risparmio per un determinato periodo l'ho ottenuto là, perché era lì che lavoravo. Dopodiché, in quell'occasione, in quel periodo, ho fatto rientrare tutto in Italia. Ma se lui non ha aderito allora ad un'operazione di scudo fiscale, non credo che possa rientrare sotto la scure di questo prelievo aggiuntivo. È così, diciamo che la norma da questo punto di vista è chiara nel dire che l'applicazione dell'imposta si riferisce sostanzialmente al contribuente che si è avvalso dello scudo fiscale, quindi ha firmato la famosa dichiarazione riservata. Se il signore non ha sottoscritto una dichiarazione riservata, diciamo che peraltro sono passati molti anni e probabilmente anche l'eventuale illecito a suo tempo commesso si può nel frattempo essere prescritto. Prescritto. Lui dice di averlo fatto nel 2001, questa operazione comunque di importazione. Importazione di capitali. Esatto, quindi esiste peraltro nel gergo finanziario. Beh sì, tra l'altro appunto però bisogna stare attenti perché come dire, l'operazione di regolarizzazione riguardava non solo i capitali, come dire, esportati illegalmente, ma anche quelli detenuti in maniera diciamo illecita, cioè non dichiarata al fisco italiano. Ma se lui può dimostrare che era frutto del suo lavoro a Bruxelles e quindi è stato un banale appunto portare questo denaro in Italia, però ecco, avvocato Vedana, quali problemi? Tecnicamente la norma è chiara, cioè parla di attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi di una serie di articoli, quindi non parla semplicemente del fatto di aver riportato in Italia dei soldi, ma di essersi avvalsi della dichiarazione dello scudo fiscale, che nella sostanza per il contribuente ha voluto significare presentarsi da un intermediario con la volontà di sottoscrivere e aver sottoscritto una dichiarazione riservata. Appunto, Marco. Se voglio dire, ha avuto a quell'epoca un commercialista che per evitare qualsiasi tipo di problema ha preferito usare la via dello scudo, è chiaro che a questo punto dovrà anche pagare l'1,5%, insomma, è evidente, al di là del fatto di aver avuto diciamo dei legittimi risparmi all'estero. Se ha usato lo scudo, a questo punto risulta come scudato e dovrà pagare l'1,5%. Io così ho sempre mi piacerebbe vivere nel migliore dei mondi possibili e spero che Ettore magari in quel frangente sia stato anche ben consigliato dalla banca alla quale si è rivolto e che si è vista recapitare questo denaro in arrivo da Bruxelles, proprio peraltro in pieno periodo di primo scudo fiscale, avvocato Vedana, quindi magari anche l'intermediario spero che gli abbia dato i suggerimenti giusti. Se non gli ha spiegato che doveva fare una dichiarazione riservata e scudare questa somma, forse hanno fatto già tutto regolarmente. Io penso di sì, c'è da pensare che se non ha utilizzato lo scudo e ha comunque riportato in Italia delle attività che deteneva all'estero, l'ha fatto nel rispetto di quelli che possono essere gli obblighi, quindi fermarsi in dogana se si hanno più di 10.000 euro e via dicendo. Però credo che la domanda dell'ascoltatore debba avere un'altra risposta, probabilmente se è fatto venire lo scrupolo di porre la domanda, probabilmente qualche cosa gli è sfuggito. Allora Ettore, facciamo una cosa, ci scriva una mail se vuole un po' più dettagliata, anche noi utilizziamo la massima riservatezza su queste cose, per cui le potremmo far dare delle indicazioni più precise dall'avvocato Vedana, al quale scriviamo spesso con casi dei nostri ascoltatori. Sentirei anche Roberto da Brindisi. Roberto? Sì, pronto? Si è distratto. Roberto, buongiorno. No, si sente malissimo. Vuole che riproviamo a telefonare magari? Magari la sento, sono in macchina e sono col viva voce. La domanda è molto semplice. Io chiedo questo agli esperti: se una persona non ha evaso, non ha capitali illeciti, ma ha semplici risparmi. Perché non può portare i suoi capitali all'estero? Chi l'ha detto perché che non ce li può portare, Roberto? Chi l'ha detto? Chi no, lo dice? Perché poi potrebbe succedere che praticamente i capitali all'estero, metta caso, devono rientrare, fanno parte di questi capitali che magari... Roberto, se è tutto regolare, se lei il suo risparmio lo può collocare in qualunque, a meno che non sia chiaramente un paradiso fiscale e ci siano dei traffici strani, però l'importante è che il fisco italiano conosca queste posizioni all'estero. Marco Bellinazzo. Sì, c'è il quadro RV, ormai, il famigerato quadro RV, esatto, famigerato, che io non conosco, però ho imparato a conoscerlo con l'avvocato Vedale in bene passato. Meno io, però chi appunto fa questa scelta, cioè di portare dei capitali all'estero, poi può semplicemente indicare la somma in questo quadro RV, denunciare al fisco italiano, insomma, adempiere tutti gli obblighi di legge, come ha detto bene l'avvocato Vedana, e a quel punto non ha nulla da temere. Se invece lo ha fatto clandestinamente, cioè non inserendo la cifra nel quadro RV, e poi decide di portarli indietro, ha deciso in passato di farlo attraverso lo scudo, ora dovrà pagare questa imposta supplementare. C'è poco da quindi fare. Insomma, non fate questo esercizio di sintesi estrema delle questioni. Nessuno dice che non si possano fare queste operazioni, anche perché insomma, a quanto pare è ritornata di gran moda la fuga verso la Svizzera in questo periodo, dove non ci sono più cassette di sicurezza, ma questo lo stiamo già denunciando dalla scorsa estate con il nostro collega Alessandro Galimberti, che si è fatto un sacco di giri a Lugano, li ha fatti anche Giuseppe Chiellino, un altro collega del Sole 24 Ore, a testimoniare proprio che come dire, adesso c'è questa difficoltà a portare il denaro là perché non c'è più capienza nelle cassette di sicurezza, nei conti sì, però Marco. Beh sì, infatti il vero tema è questo accordo possibile che da molti mesi lo Stato italiano e quello elvetico stanno trattando sulla falsariga di quello che già hanno fatto Germania e Gran Bretagna. Per in qualche modo recuperare a tassazione una parte di questi capitali italiani che sono nei forzieri elvetici in questi. Infatti, insomma, allora adesso ritorniamo allo scudo fiscale, le modalità con cui verrà applicata questa tassa aggiuntiva dell'1,5%, su quali beni e se questi beni non sono più rintracciabili, se lo scudatore, il contribuente che ha scudato in passato, ha liquidato questi beni, comunque lui non li ha più e dice perché ci devo pagare anche qui una tassa retroattiva. Salva Danaio. Allora, volevo salutare un'ascoltatrice, Valeria, che giustamente sta manifestando un po' di disappunto e ci scrive: tengo a precisare che chi ha usufruito dello scudo fiscale non è sempre solo un evasore. Valeria ha ragione, diciamo che tecnicamente lo è, come mi suggeriva Marco Bellinazzo, poi le spieghiamo perché. Nel mio caso, ci racconta, ho ereditato in quel periodo questo denaro, poco peraltro, mi sentivo in colpa e ho usufruito del primo scudo proprio per questo. Ora mi trovo doppiamente tassata, di mio non è mai evaso un euro, inoltre i soldi li ho usati per comprare la casa in cui vivo, per cui ora faccio un po' fatica a recuperarli. Valeria, lei ha ragione, però di fatto mediamente la concezione dello scudo fiscale è sempre associata a quella dell'evasione fiscale. Poi ci sono anche altri casi paradossali, lo raccontavamo tante volte con l'avvocato Vedana nelle altre trasmissioni. C'è chi si compra una proprietà immobiliare in un altro paese europeo magari e così, anche in buona fede, si dimentica di denunciarlo al fisco italiano, quindi, come dire, è chiaro che uno opera in buona fede, però poi tecnicamente diventa evasore, perché di questa proprietà, Marco, il fisco italiano non conosce niente, magari gli produce reddito all'estero. Beh, è chiaro che se si viola determinate regole fiscali, si commettono appunto illeciti di tipo tributario o addirittura poi di tipo penale se si superano determinate soglie. Lo spirito con cui questa violazione avviene conta fino a un certo punto, ed è chiaro che non stiamo facendo una battaglia contro chi si è trovato in situazioni magari anche ereditate dal passato. E tra l'altro, appunto, tornando ora alla nuova imposta straordinaria, visto che si fa riferimento ad operazioni di sanatoria anche risalenti nel tempo e quindi i titolari potrebbero essere nel frattempo deceduti, dobbiamo anche ricordare che gli eredi si trovano ora nella condizione di dover far fronte a questa imposta, perché almeno da quello che emerge finora dall'articolo del decreto Salva Italia sembra appunto che l'imposta sia di tipo oggettivo e quindi anche gli eredi che hanno appunto avuto la trasmissione di questi beni dovranno pagare. Peraltro non me ne ero accorta, Marco, c'è proprio una domanda di Marco da Lucca su questo aspetto. Marco, buongiorno. Buongiorno, salve Deborah. Ci dica. La mia domanda era proprio quella: in caso di successione, se gli eredi sono comunque sottoposti all'ulteriore prelievo del 50. Certo Marco, la ringrazio molto, un aspetto al quale io per esempio preparando la trasmissione non avevo per niente pensato. Avvocato Vedana, allora può intervenire anche su tutti gli aspetti che abbiamo sollevato con gli ascoltatori precedenti, la fuga verso la Svizzera e quanto altro se vuole. Allora, giustamente Marco richiamava l'attenzione sugli accordi che la Svizzera sta facendo con la Germania. Se li avessimo applicati a questi scudi, gli ascoltatori probabilmente, soprattutto quelli che hanno scudato, si renderebbero conto che anche con l'aggiunta dell'1,5 lo scudo fiscale rimane conveniente, perché la Svizzera, o meglio la Germania, applicherà il 25% sui patrimoni degli evasori tedeschi, quindi ritornano a casa 75. L'Italia, anche applicando l'aliquota dell'1,5 all'aliquota massima del 7%, siamo comunque all'8,5, quindi siamo ben lontani dal 25 punti percentuali applicati dalla Germania. E infatti, per cui anche chi è che si sente tanto tartassato in questo periodo magari valuti anche quello che succede nelle altre parti d'Europa. Rispondendo velocemente alla domanda dell'ascoltatore, purtroppo o fortunatamente, dipende dai punti di vista, in questo caso non stiamo parlando di una sanzione ma di un'imposta, e l'imposta è trasmissibile a differenza della sanzione. Terzo aspetto che metto in luce, avete giustamente evidenziato il tema degli immobili, e qui secondo me c'è un piccolo problema nella norma. La norma richiama, il comma 4 dell'articolo 19 fa riferimento alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi di una serie di articoli, viene lasciato via, probabilmente una mera dimenticanza, l'articolo 16 del decreto legge 350 del 2001. Perché è importante questa dimenticanza? L'articolo 16 consentiva ai primi scudi di regolarizzare gli immobili, quindi il classico immobile che si aveva in Svizzera o in altro paese, con il decreto, con i primi due decreti sullo scudo fiscale, poteva essere semplicemente regolarizzato. Se la norma rimane così, chi ha fatto la regolarizzazione di immobili non dovrà pagare l'imposta dell'1,5. Ah, allora rispondiamo in questa maniera anche a Rosanna da Brescia. Avvocato Vedana, le leggo questa mail. Ci racconta l'ascoltatrice che ha scudato la casa in Grecia nell'ultimo scudo fatto, consigliata dal suo commercialista, solo per poterla inserire nel quadro RV che abbiamo citato prima per regolarizzare la situazione. Ho pagato la cifra dovuta anche se non era obbligatorio per me pagarla, lei dice. Ho ritenuto giusto pagarla anche se non avrei dovuto, per non incorrere in problemi successivi. Devo pagare anch'io la differenza che ora ci chiedono, in realtà un'imposta aggiuntiva. Posso dimostrare senza incorrere in sanzioni che ho già dato anche se non era obbligatorio? Non capisco perché l'ascoltatrice ritenga che non fosse obbligatorio. Beh, in realtà diciamo che era dubbio, l'ascoltatrice probabilmente l'ha fatto su suggerimento del suo commercialista perché non l'aveva messa nell'RV. Comunque, chi ha fatto gli ultimi scudi e ha scudato gli immobili deve pagare l'1,5. La deroga a cui facevo riferimento riguarda solo chi ha regolarizzato, quindi utilizzato una delle modalità previste dallo scudo, con i primi due scudi, quindi tra il 2001 e il 2003, perché, ripeto, il comma 4 dell'articolo 19 richiama l'articolo 12 e l'articolo 15 del decreto legge 350, ma non l'articolo 16, che è l'articolo che invece parlava espressamente della regolarizzazione delle attività patrimoniali, tra i quali gli immobili. Perché naturalmente non possono essere rimpatriate quelle. Quelli no, però con l'ultimo scudo è stato prevista la possibilità di fare il rimpatrio giuridico degli immobili, cosa che invece non era possibile con i primi scudi. Allora, prima rata in pagamento, avvocato Vedana, 16 febbraio 2012, peraltro una prima rata come sarà suddivisa? A metà esattamente, 50-50, secondo lei, oppure le percentuali saranno differenti? Non lo so, l'acconto di febbraio 2012 sarà differente rispetto al saldo del 16 febbraio 2013, qui la norma è chiara? Parla di pari importo. Pari, quindi 50 e 50. Esatto. Benissimo, andiamo ad un altro ascoltatore, c'è Angelo da Milano. Angelo, buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, le ringrazio. Angelo, dov'è? Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Ci dica. Senta, io avevo dato dei soldi in gestione ad una fiduciaria svizzera, spedendoli al suo indirizzo bancario qui a Milano. Non mi ero reso conto che il conto era un conto svizzero, per cui in pratica i soldi come se fossero stati trasferiti in Svizzera. Sì. Quando abbiamo saputo questa cosa, era tardi per fare la dichiarazione RW, era scaduto l'anno di tempo. Ah, quindi ha dovuto scudare successivamente. Per cui abbiamo dovuto scudare, abbiamo pagato l'importo che ci è stato richiesto e a quel punto abbiamo scoperto che la fiduciaria svizzera è saltata. Il proprietario, che aveva anche la doppia cittadinanza, si è trasferito negli Stati Uniti, per cui non sarà neanche mai rintracciabile per la Svizzera, perché avendo la doppia nazionalità non sarà mai estradato. E a questo punto non abbiamo più una lira, abbiamo pagato lo scudo. E lei dice, insomma, se paradossalmente dovrò anche pagarci questo 1,5%. Angelo, si fermi lì, abbiamo poco tempo, la questione è anche un po' complessa. Vediamo se l'avvocato Vedana riesce a darci una mano su Angelo. Se questo ascoltatore può dimostrare di non essere più assolutamente in possesso né di questo capitale, né di poter riuscire a risalire addirittura all'intermediario di questa operazione, che cosa deve fare? Temo che non ci sono molte scappatoie, sono due piani diversi, un conto sono i debiti nei confronti dello Stato italiano, un conto sono i crediti che questo signore chiaramente ha nei confronti di chi è stato disonesto, però ahimè sono piani diversi, credo che in questo momento di deroghe non ne vedo al pagamento dell'imposta. E infatti, tra l'altro, per chi non verserà questa prima rata il 16 febbraio del 2012, la norma prevede anche delle sanzioni, avvocato Vedana? Per chi non rispetta queste disposizioni, praticamente il pagamento di una sanzione pari alla somma non pagata, quindi di fatto diventa doppia l'imposta che si va a pagare se non si paga. Come lo Stato scopre questo eventuale non pagamento? Perché all'intermediario viene chiesto di dare comunicazione degli eventuali contribuenti che non hanno messo a disposizione la provvista per effettuare il pagamento dell'imposta. Devo dire che è un aspetto questo che a noi intermediari non ci piace moltissimo, perché ci viene chiesto di fare una cosa peraltro che già facciamo, e cioè che viene alimentata l'anagrafe tributaria, l'anagrafe dei conti, poi delatori, mi tocca fare dei rapporti già comunicata tramite il 770, quindi sono già informazioni che lo Stato ha. Esatto, quindi insomma mantenere la riservatezza diventa sempre più difficile. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sicuramente molti aspetti non saremo riusciti a chiarirli definitivamente, ci ritorneremo, tanto da qui al 16 febbraio sarà sicuramente necessario fare altre trasmissioni, perché poi progressivamente arriveranno anche i dettagli ulteriori dalle misure attuative del governo. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi, buongiorno. Avvocato Vedana, per oggi la vacanza che ho finito di rovinargli, la buona giornata. Grazie, è sempre un piacere, arrivederci. Grazie. Anna da Torino, a cui non siamo riusciti a rispondere, se vuole Anna ci scriva. Noi intanto di Salvadanaio torniamo domani. Per la vostra felicità io sono anche stasera Focus Economia. Buona giornata a tutti.